Buonasera da Maurizio Melis. Mercoledì scorso a Palaio Faliro, nei pressi di Atene, si è svolto l'ultimo capitolo della saga dell'ICAT, il reattore, ideato da Andrea Rossi e Sergio Focardi, che funzionerebbe grazie alle cosiddette reazioni nucleari a bassa energia, che avverrebbero in questo caso tra nichel e idrogeno e che produrrebbero energia totalmente pulita. Parliamo di una sorta di caldaia per l'acqua calda che dovrebbe esordire nei prossimi mesi sul mercato. È una storia che gli ascoltatori di Mr. Kilowatt conoscono bene, in cui si mescolano scetticismo e speranza per quella che sarebbe una tecnologia rivoluzionaria e che continueremo a seguire in attesa di scoprire come andrà a finire. L'occasione era la presentazione ufficiale di Defcalion Green Technologies, la società, lo ricordiamo, che possiede i diritti di commercializzazione dell'ICAT in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti. Defcalion è a sua volta posseduta da un'altra società, questa volta cipriota, Praxen. Diciamo subito che la legislazione vigente a Cipro consente l'anonimato dei soci. Torneremo poi su questa questione. Sul palco c'erano naturalmente l'inventore Andrea Rossi, Christos Stremmenos, che è fisico ed ex ambasciatore della Grecia in Italia, che ha fatto un po' da pontiere con lo Stato ellenico, e infine Alexandros Chantoulis in rappresentanza degli investitori, cioè dei soci di questa Praxen. Abbiamo raccolto in una scheda i numeri e le informazioni che la società ha fornito. Ascoltiamo. Con meno di un centesimo per kilowattora di calore prodotto, Hyperion, questo il nome commerciale dell'ICAT, si candida ad essere la caldaia più economica al mondo. Questo è il biglietto di presentazione di Defcalion Green Technologies, che ha rivelato anche il prezzo a cui intenderebbe vendere unità adatte a riscaldare un appartamento da 100-200 metri quadri. Circa 5.000 euro, come una normale caldaia. Secondo quanto dichiarato dai suoi rappresentanti, l'azienda produrrà moduli per la produzione di acqua calda con potenze variabili tra 10 kW e 3,4 MW, che saranno anche adatti a produrre energia elettrica con un rendimento del 25-30%. A Shanti è in corso la realizzazione del primo stabilimento di 6.000 metri quadri che darà lavoro a 175 persone e diverrà operativo nella produzione dell'Hyperion a partire dall'inizio del 2012. L'investimento previsto è di 70-80 milioni, ma si tratterebbe solo del primo di tre stabilimenti da realizzare entro il 2012, sempre nella stessa località, per un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro. Oltre alla stampa, tra il pubblico erano presenti rappresentanti dell'Università di Pechino, del Green Party tedesco, ma soprattutto era presente il ministro greco dell'economia e dell'industria Shinidis, oltre a vari esponenti delle istituzioni tecniche ed economiche del paese ellenico. Bisogna dire che forse la presenza del ministro è l'elemento più solido che la conferenza stampa ha offerto. Gli ho chiesto quale fosse il ruolo del governo in tutta questa vicenda, in particolare per quanto riguarda la certificazione del funzionamento dell'ICAT, sul quale restano ancora dei dubbi. Sentite come ha risposto. Quello che viene descritto oggi come tecnologia e prodotto industriale ha bisogno, da quello che abbiamo visto, delle solite certificazioni che richiede l'Unione Europea per questo tipo di apparecchiature. Finora non ci è stato chiesto dall'azienda qualcosa di specifico, ma comunque diamo la nostra piena disponibilità a rispondere a qualsiasi esigenza che possa emergere per facilitare l'azienda. Delusa invece quella parte di comunità scientifica che si aspettava almeno l'annuncio di un test che possa mettere fine ai dubbi sull'effettivo funzionamento dell'apparato che ancora lo circondano. Un test in arrivo però c'è, sentiamo che cosa si tratta proprio dalla voce di Alexandros Chantoulis, intervenuto in rappresentanza degli investitori. A proposito, 9 in tutto, i cui nomi però, con l'eccezione dello stesso Chantoulis, restano totalmente avvolti nel mistero. Ma sentiamo che cosa ha risposto Chantoulis a proposito di questo test in arrivo imminente tra il 5 e il 10 luglio. Gli ho chiesto di spiegarci che cosa verrà testato e soprattutto chi eseguirà questi test. È semplicemente un test di fronte alle autorità greche. Naturalmente noi abbiamo già eseguito questi test. Non faremo altro che ripetere davanti alle autorità greche qualcosa che abbiamo già fatto 10 volte. Come sa, la comunità scientifica chiede da tempo un test in condizioni controllate, sostanzialmente un test di durata che potrebbe chiudere la bocca, diciamo così, agli scettici. Lei ritiene che questo test risponda a questa domanda della comunità scientifica? Guardi, dal mio punto di vista ci sono tre domande importanti. Primo, l'oggetto produce energia? Secondo, per quanto tempo produce energia? E terzo, c'è qualche tipo di radiazione emessa dal dispositivo? Noi abbiamo già testato tutto ciò e abbiamo ottenuto risultati positivi. Ora, mi creda o no, supponiamo di inviare 200 scienziati e che questi testino l'apparecchio esattamente come abbiamo fatto noi. Otterremmo solo altrettanti dubbi e domande. Non è questa la strada che intendiamo percorrere. Abbiamo già dei responsi, per esempio quello dell'Accademia delle Scienze svedese. Ora avremo anche quello della Commissione per l'Energia Atomica della Grecia e di tutte le altre organizzazioni greche del caso. Non è che il versante scientifico non mi interessi, capisco tutte le domande degli scienziati, ma dal punto di vista del business, che è il nostro vero lavoro, abbiamo già tutte le informazioni che ci servono e presto otterremo anche tutte le certificazioni necessarie per procedere. Ora siamo nella fase finale di sviluppo industriale, nella quale stiamo investendo molti soldi. È ovvio che ci crediamo. Insomma, siamo in presenza di una contrapposizione tra quello che è l'approccio imprenditoriale e quella che invece sono le richieste che arrivano dalla comunità scientifica. Insieme ad altre incertezze, come quella sui nomi dei finanziatori, queste circostanze oggettivamente alimentano i dubbi e lo scetticismo. Non resta che rimanere alla finestra e continuare a seguire questa storia che comunque si concluderà. Credo avrà qualcosa da insegnarci. Questo è tutto. Buona serata, a domani. We'll be right back.